La passione del vedere la realtà sotto un'altra luce. Visto che il suo primo libro si chiamava Sette storie gotiche, il gotico va di gran moda da Twilight in poi, quello che lei ci ha insegnato è che nelle storie più ovvie, nei momenti più banali del quotidiano, si può sempre annidare un'avventura che spesso è sotto il segno del gotico, appunto, dell'epifania, della rivelazione. In definitiva, Karen Blixen diceva di se stessa che era una strega che aveva votato se stessa Satana, perché avendo per la sifilide perduto la capacità di amare e di avere relazioni con altre persone, dice nelle sue varie testimonianze riportate da persone a lei amiche che in un momento specifico il diavolo le aveva dato il talento e la narrazione di poter trasformare tutto quello che era ovvio in sorprendente. Che tipo di donna era Karen Blixen? Fascinosa, e fascinosa anche nella mettere in gioco il proprio horror, perché Karen Blixen, l'immagine che noi abbiamo è quella di una persona malata che pesava 40 kg, esagerare, uno scheletro, che diceva di se stessa come un personaggio famoso del suo racconto La scimmia, io voglio lasciare di me stessa uno scheletro bellissimo, e che quando andava in giro giocava più o meno a fare la Dark Lady.